Wilson Pickett. Ehi, dimmi tu James Brown, questa voce dove la trovate? Signor King, signor Charles, signor Brown, io faccio tutto per poter cantare come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai, e penso che sia soltanto per il mio colore che non va. Arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. Io dico Nino, tu non ci dovresti pensare, ma non c'è niente da fare per dimenticare sto maledetto colore di pelle che mi brucia un po'. Carissimi estinti, ehi, voi che sapete già, voi che cantate gloriosamente per i pascoli dell'aldilà, ditemi se per entrare